America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Vittorio Grigolo, grande tenore, perché ormai tutti dicono che è il nuovo Pavarotti. Ieri a New York, al Guggenheim Museum, c'è stato un concerto molto esclusivo per celebrare i 150 anni di Toscanini. Questo è un evento, diciamo così, viaggiante, organizzato dalla Salini in pregilo, che è stato anche a Washington, è stato anche in Italia naturalmente. Devo dire, è stato un evento che ha mobilitato la cultura americana qui a New York attorno a Vittorio Grigoli. Ma non c'è stato solo quello. Ieri è una giornata molto intensa per le cose italiane, c'è stato anche un annuncio importante in relazione alla maratona, perché fra pochi giorni, domenica, ci sarà la maratona. Sentiamo. L'anno prossimo, in collegamento con la festa nazionale del 2 giugno, ci sarà per la prima volta nella storia, che sarà il 2018, una gara di corsa esclusivamente dedicata all'Italia, Central Park. Ecco, avete sentito il console generale a New York, Francesco Gianuardi, che non solo ha ringraziato tutti i maratonetti italiani che sono venuti dall'Italia per fare la maratona a New York, ma ha dato questo regalo, questo annuncio: ci sarà una maratona italiana, Italian Run, il 2 giugno, proprio in coincidenza con la festa della Repubblica qui a New York. 5 miglia che si correranno a Central Park. Devo dire, una notizia bellissima, celebrata tra l'altro ieri in consolato, c'erano i rappresentanti di questi 3.002, cioè 3.002 nel senso 3002 italiani che vengono ancora alla maratona. Pensate, il secondo gruppo più importante dopo quello americano. C'erano l'atleta Franca Fiacconi, che ha vinto la maratona di New York nel 98, c'era Leonardo Cenci, che è questo atleta, pensate, malato di cancro terminale, che pure riesce a correre questa maratona. Bene, passiamo adesso alle notizie americane. We're working to give the American people a giant tax cut for Christmas. We are giving them a big, beautiful Christmas present. Donald Trump, che ieri annuncia il progetto di riforma fiscale. Devo dire, era molto ottimista, molto orgoglioso il presidente americano, non solo perché dava annuncio di questo accordo raggiunto in Congresso per presentare un piano di riforma che in effetti è il più importante in 30 anni, sia dal punto di vista della ristrutturazione delle aliquote che da quello della riorganizzazione di alcune deduzioni, alcune voci che nelle vecchie dichiarazioni erano trattate in modo del tutto diverso. Il presidente era orgoglioso perché diceva che questo piano consentirà di rilanciare l'economia americana, anzi ha presentato un imprenditore che aveva da poco riportato in America dall'Asia una sua azienda, i quartieri generali di un'azienda di comunicazione. Ma veniamo al piano fiscale, perché in effetti la giornata di ieri dal punto di vista dell'economia è stata una giornata che sarà ricordata come una delle più importanti dal punto di vista storico per questa amministrazione Trump. E tra l'altro non solo per l'annuncio dei dettagli della riforma fiscale, ma perché Trump ha annunciato anche il sostituto alla guida della Federal Reserve, e cioè Jerome Powell, che già lavorava alla Fed e che rappresenta la continuità. Ma adesso vorrei soffermarmi un momento su questa riforma fiscale, perché in effetti è piuttosto interessante. Sentiamo. Today we are taking the next step to liberate Americans from our broken tax code. This unified framework delivers a new tax code that is simple, that is fair, that is pro growth and pro family. Allora, intanto una riforma fiscale questa che riguarda sia gli individui le aziende, quindi è a tutto campo. La riforma per le aziende è permanente, quindi non è una riforma che durerà, non so, 10 anni, 5 anni, ma è qui per stare. Quindi dobbiamo immaginare che in effetti resterà, chissà, magari per qualche decennio. Non credo che i democratici, se dovessero riprendere il potere, a un certo punto andranno a cambiare le aliquote delle aziende. Partiamo con le aziende perché è forse la situazione più semplice. Le aziende oggi in America pagano il 35% di aliquota federale di tasse. Questo vuol dire che complessivamente, se si aggiungono le tasse statali e cittadine, questa aliquota può salire facilmente anche al 49-50%. Ebbene, Trump l'ha ridotta, voleva ridurla, nella promessa elettorale diceva la ridurrò al 15%, l'ha ridotta al 20%, che è in effetti un balzo non da poco. Scendere dal 35 al 20% significa risparmiare il 15% ogni anno di profitti che altrimenti sarebbero andati allo Stato. Passiamo agli individui. Allora, intanto una riduzione, una semplificazione degli scaglioni fiscali. Da 7 si scende a 4. Sui primi 45.000 dollari di reddito disponibile per gli individui, cioè per coloro che fanno una dichiarazione del reddito individuale, e fino ai primi 90.000 dollari per coppie sposate, quindi una dichiarazione congiunta, l'aliquota, la nuova aliquota, sarà al massimo del 12%. In effetti al 12%, anche in questo caso, attenzione, parliamo di tassa federale, il 12% è la tassa federale, dobbiamo aggiungere poi la tassa statale e quella cittadina, dunque l'aliquota effettiva è molto più elevata. Ma quali sono gli altri scaglioni? Allora, il secondo scaglione del 25% parte da 90.000 dollari e arriva fino ai 200.000. 100.000 dollari per gli individui e 260.000 dollari per le coppie sposate, quindi chi avesse un guadagno congiunto di 260.000 dollari paga il 25%. Oltre questo livello si paga il 35%. Chi guadagna più di un milione di dollari come coppia e 500.000 dollari per gli individui, beh, continuerà a pagare l'aliquota massima, che è il 39,6%. Ci sono poi vari sgravi fiscali e dal punto di vista personale c'è anche l'abolizione della tassa di successione. Ecco, questo insieme, come potete immaginare, va contro quelli che sono gli auspici del Partito Democratico, perché l'attacco è stato immediato. Questo piano di Donald Trump finisce con l'avvantaggiare soprattutto le classi più ricche della popolazione. Dunque, aspettiamoci una battaglia molto dura su questo fronte, una battaglia che durerà a lungo. Il mio pronostico è che alla fine Trump e i repubblicani ce la faranno. Questo sarà un forte impulso per l'agenda politica del presidente e per la sua statura, se vogliamo, di uomo politico che ha raggiunto gli obiettivi che aveva promesso. Avrà un impatto forte questa riforma sulle elezioni del 2018, e come ha promesso Trump, beh, credo che quasi sicuramente il presidente potrà firmare e annunciare l'accordo agli americani entro Natale. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su Mario24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato di Federal Reserve, abbiamo parlato di tasse e dunque di Barrett Strong, Money. Tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento al lunedì. Goodbye and get going.